Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ormai è fatta, di Ors Fantazzini, parte quinta. Tra poche ore si avrà l'epilogo. Mi sento abbastanza tranquillo e sicuro, ma già più volte in passato il mio istinto mi ha fatto fare pessime figure. Piccirillo osserva con insistenza la mia Mauser. Gli piace? Per ingannare il tempo gli spiego, a distanza, le caratteristiche tecniche del sistema di innesto e disinnesto della sicura. Piccolo particolare che però dimostra la sostanziale differenza qualitativa delle armi tedesche rispetto a quelle italiane. Ho la sicura innestata. Fingo noncuranza per vedere la reazione della giovane guardia. Se tenterà qualcosa, mi sarà facile mantenere il controllo della situazione. Piccirillo resta tranquillo e questo mi fa piacere, ma non è comunque un test determinante per allentare la mia diffidenza e continuo a prendere le solite precauzioni, forse eccessive, nei confronti suoi e di Grasso. Il telefono. Questa volta è Vicari, il direttore del carcere. Era in ferie ed ha dovuto interrompere precipitosamente. Dice che è arrivato in questo momento, che è all'oscuro di tutto e che vorrebbe sapere cosa è successo. All'oscuro di tutto. Mi pare immediatamente chiara la sua intenzione di guadagnare tempo, di tenermi all'apparecchio il più possibile. Perché? Dice che lui ha cercato di fare di Fossano un carcere diverso dagli altri, con accento di sincero rimpianto, dice che quanto successo oggi non era mai accaduto in alcun carcere ed è successo proprio qui a Fossano. Chissà perché questa osservazione mi fa ritornare alla mente l'immagine sorpresa ed addolorata d'un bambino al quale inavvertitamente calpestai il giocattolo preferito, anni or sono. Terminato lo sfogo per la rottura del suo giocattolo preferito, anche il direttore comincia la sua opera di persuasione. Parla, parla, parla. Da basso si rendono perfettamente conto dell'inutilità di questi discorsi. Quale trappola si nasconde dietro questa strategia, seppur tanto intelligente? Interrompo il direttore e gli dico di passarmi l'ispettore con il quale ho iniziato le trattative. All'ispettore dico, senza preamboli, che la mia pazienza è agli sgoccioli. Do un ultimatum per De Vinti. Per quell'ora voglio l'assicurazione ufficiale che tutte le mie richieste sono state accettate, che sarò assecondato in tutto, che non si farà nulla, assolutamente nulla, per ostacolarmi. M'espone le difficoltà per reperire i soldi, dato che le banche sono chiuse. Anche trovare la macchina da me richiesta non è così facile. Sta chiaramente mentendo. Rinnovo il mio ultimatum e gli dico che se per le 20 tutto non sarà sistemato, la vicenda terminerà tragicamente. Stanno preparando qualcosa là fuori, ma cosa? Mentre dentro il carcere Fantazzini stava barricato dentro l'ufficio del direttore, continuando a trattare le condizioni d'uscita dalla casa di pena, all'esterno contingenti scelti di carabinieri hanno lavorato per ore a organizzare una serie di agguati contro il detenuto. Il giorno, 24 luglio 1973. Da basso staranno febbrilmente discutendo. Falchi e colombe cercheranno di far prevalere i loro rispettivi punti di vista. Chi prevarrà? Avranno preso sul serio il mio ultimatum? Forse ho sbagliato a metterli alla frusta. Forse mi sono appoggiato troppo pesantemente sul mio bluff. Sono le 19:30. Grasso e Piccirillo sono evidentemente preoccupati. Temono qualche passo falso e che tutto possa precipitare durante la mezz'ora che manca. Nessuno parla, il suono del telefono allenta la tensione. È Vicari, parla, parla, parla. Mi dice di stare calmo. Ci sono molti problemi da affrontare. Tutto non è così facile come io forse credo. Dice che io, da dove sono, non posso rendermi conto della situazione. Ci sono migliaia di persone fuori, ci sono donne, bambini. Con tutta la buona volontà delle forze dell'ordine non si può essere completamente certi di scongiurare il pericolo che una tragedia prenda l'avvio da fattori imprevedibili. Se qualcuno fuori di sua iniziativa cercasse di bloccare la mia auto, cosa succederebbe? Debbo essere calmo, paziente, dice Vicari. Non bisogna precipitare le cose. Nessuno tenterà di ostacolarmi sino a quando sarò dentro al carcere. In carcere comanda lui, dice. C'è anche la mia vita, importante come quella degli ostaggi e quella di ogni altro essere umano. Vicari si offre come ostaggio. Dice che le due guardie, dopo la tensione di una giornata così drammatica, non sono in condizioni di venire con me ed è impensabile che possano farmi da autista. Guiderà lui. Se preferisco, guiderà l'ispettore. Verranno tutti e due. Parla, parla, parla, parla. L'attesa è esasperante. Notizie smentite si accavallano. Ad un certo punto sembra che Fantazzini abbia posto un ultimatum. Voglia un'auto per fuggire. Subito i carabinieri allontanano ancora la folla, ma le porte del carcere rimangono chiuse. Verso le 20 qualcuno afferma che le forze dell'ordine si preparano a tentare un'azione di forza. La Gazzetta del Popolo, 24 luglio 1973. Parla, parla, parla, parla. Mi ripete che lui, Vicari, è responsabile all'interno del carcere. Nessuno può prendere iniziative senza il suo consenso. Mi dà la sua parola che non saranno tentate azioni di forza all'interno dello stabilimento. Parla, parla. Finalmente arresto quel flusso di parole. Gli dico di passarmi l'ispettore, cosa che fa immediatamente. Subito l'ispettore mi dice che i soldi sono pronti. Hanno trovato anche la macchina e questa adesso si trova in un vicino garage che viene minuziosamente controllata affinché venga evitata ogni possibilità di guasti. Gli dico ironicamente che comprendo che occorre un po' di tempo per piazzare i loro trucchi elettronici per seguirmi con maggiore facilità. Replica che non è vero e che evidentemente leggo troppi libri polizieschi. Non insisto, tanto sono sicuro che il beeper ci sarà ed è proprio su di lui che baserò le mie maggiori possibilità di cavarmela da questo pasticcio. Mi chiede i dettagli, cioè dove debbono mettere la macchina, dove debbono mettere i soldi, eccetera. Gli dico che i soldi dovranno trovarsi sul sedile anteriore, accanto al posto di guida. Per quanto riguarda la macchina ed altri particolari, li renderò noti poco prima di scendere. Gli dico che il buon esito dell'impresa dipenderà dalla polizia. Quando uscirò non voglio vedere nessuno. Nessuno dovrà seguire la macchina, nemmeno i giornalisti, dato che potrei scambiarli per poliziotti in borghese. È essenziale che il questore comprenda che la situazione, quando sarò fuori dal carcere, sarà delicatissima. Sino a quando mi troverò nell'ufficio del direttore, l'uso del telefono può servire per dissipare equivoci, per trattare, eccetera. Quando io e gli ostaggi saremmo fuori, non ci sarà più il telefono e potrebbe bastare un malinteso, un niente, per trasformare tutto in tragedia. Bisogna che la polizia capisca questo e che agisca in conseguenza, cioè con la massima prudenza e discrezione. Io non so ancora quali strade faremo, quante ore userò la macchina, dipenderà dalle circostanze. Potremmo fare 1000 chilometri come 100. Potrò rilasciare gli ostaggi dopo un'ora come 10 ore o più. La polizia ad ogni modo dovrà entrare in azione solo dopo che avrò rilasciato gli ostaggi. So che sarò seguito, ma bisognerà che la polizia lo faccia con la massima discrezione, altrimenti non rilascerò i due. Dopo, come ho già detto ad un giornalista, la partita si giocherà tra me e i poliziotti. Ed è chiaro che, dati i mezzi di cui dispongono, tutti i vantaggi saranno dalla loro parte. E sarebbe sciocco rischiare avventatamente la vita dei due con un comportamento imprudente. Mi assicura che sarò accontentato. Dico di richiamarmi quando la macchina sarà pronta, affinché io possa dare le ultime disposizioni. Il suo tono mi è parso sincero. Penso che uscirò da questo maledetto buco. Dopotutto dipenderà da me, dai miei riflessi, dal mio tempismo, dal mio involontario autista. Ore 20. È ancora giorno. C'è anche l'ora legale che rompe le scatole allungando le giornate. Uscirò verso le 9:30, quindi ancora un'ora e mezzo di passiva attesa. Questa è senz'altro la giornata più lunga della mia vita e non solo della mia. Suona il telefono. È di nuovo l'avvocato Leone, è molto emozionato. Mi dice che mio padre è stato messo al corrente di quanto succede. È stato un duro colpo, ma la vecchia quercia ha reagito con la solita forza d'animo e coraggio. Lo metto al corrente delle ultime novità e lui mi dà qualche buon consiglio. Ma nella sua voce c'è solo tristezza perché ha compreso che tutto è inutile. Cosa può fare per me? Gli dico che potrebbe mettersi in contatto con il questore e ribadire quanto da me già detto all'ispettore ed a tutti. La vita degli ostaggi dipenderà solo ed esclusivamente dal comportamento della polizia. Deve venire a Fossano? No. La sua presenza mi sarebbe solo d'impaccio, così come quella di qualsiasi persona amica. Mi fa promettere che prima di scendere gli telefonerò e mi lascia alcuni numeri di telefono affinché io possa trovarlo con certezza. Mentre ricopio i numeri telefonici per tranquillizzarlo sulle mie condizioni, scherzo un po', dicendogli che mi sta mettendo in una situazione critica, dato che con una mano devo scrivere i numeri, con l'altra debbo tenere la pistola, con l'altra debbo reggere la cornetta, ma che io non posseggo tutte queste mani. L'avvocato ha parole di pietà per gli ostaggi. Fantazzini, lei ha fatto una scelta, loro no. Quei due poveracci sono totalmente innocenti. Gli dico che non è mia intenzione far loro del male e che tutto dipenderà dal comportamento della polizia. Anche con lui sono costretto a bleffare. In basso stanno senz'altro ascoltando delle telefonate. Gli passo grasso affinché possa sincerarsi del buon stato dei due. Dopo averlo lasciato scambiare qualche parola con il brigadiere, riprendo io il telefono per salutarlo. La conversazione mi è penosa perché comprendo che quest'uomo sta soffrendo per me. Mi accomiato da lui, dicendogli che non è vero che in questo ufficio ci sono due poveracci. Ci sono tre, ed il terzo è il più solo e disperato di tutti, e sta lottando con le unghie per strappare una libertà che gli si vuole negata per sempre. Questa mia frase lo colpisce dolorosamente. Nessuno, più dell'avvocato Leone, che mi ha seguito in processi per mezza Italia, è in grado di comprendere le mostruosità giuridiche che stanno alla base di questo mio gesto così clamoroso, di quest'atto tanto disperato. Sui dialoghi telefonici e sulla personalità del bandito, lo stesso avvocato Leone ha dichiarato: «Sono stato assai vicino a Fantazzini nell'anno peggiore della sua vita». Nel corso di 6 processi ha vissuto l'altalena delle sue illusioni e delle sue delusioni, che si nascondeva sotto la sua finta indifferenza. Abbiamo insieme lottato contro la terribile macchina della procedura per poter unificare sotto un unico processo le tante rapine compiute in tutta Italia. Fino a ieri, sia pur con le sconfitte subite, questa lotta continuava innanzi 7 corti d'assise. Ho cercato di convincerlo che il suo sarebbe stato un suicidio. Gli ho ripetuto la sua avversione per la violenza. Gli ho ripetuto che i due agenti sequestrati erano le più innocenti vittime. Mi sono assicurato che avrebbe fatto il possibile per non fare del male agli ostaggi. Mi ha passato per due volte al telefono il brigadiere prigioniero ed ha voluto che anch'io lo rassicurassi delle sue intenzioni. Mi ha ribadito che la sua era la determinazione disperata, lucidamente razionale, di chi si trova in un vicolo cieco. Mi ha raccomandata alla sua famiglia. Come sua abitudine mi ha ringraziato per l'interessamento. Sembrava l'Horst di sempre, in apparenza calmo e quasi distaccato, ma sotto quella freddezza c'era tutta l'angoscia di chi temeva d'essere condannato a vita, senza mai aver ucciso, senza mai aver usato violenza. Il resto del Carlino, 25 luglio 1973. Il telefono è posato, ma nelle mie orecchie induce ancora la voce dell'avvocato Leone con i suoi accenti stupiti, dolorosi, impotenti. Addio, avvocato Leone. Non ci rivedremo più, comunque vadano le cose. Alla fine di questa avventura sarò libero o morto. Horst, strana vita la tua. Chi sei? Dove vai? Cosa cerchi? Anche tu, come ogni essere umano, hai la tua componente di narcisismo. Leggersi sul giornale, ascoltarsi alla radio è un poco come ammirarsi allo specchio. Forse sei anche leggermente masochista, quel tanto che serve per equilibrare i tuoi complessi di colpa. Però manca in te la componente sadica e qui cominci ad allontanarti dalla normalità. In questo momento pensano che sei un duro e forse lo pensi anche tu. Analizzando le cose obiettivamente non lo sei. Hai coraggio forse, ma non sei un duro. Loro non sanno che sarebbe sufficiente che in questo momento entrasse la mamma di Grasso o la nonna di Piccirillo per farti completamente capitolare. Non t'arrenderesti, no, sei troppo orgoglioso, però abbandoneresti gli ostaggi e ti metteresti a fare il Don Chisciotte solo contro tutti, solo che il bravo Don Chisciotte era un vero idealista. Lui vedeva personaggi stranissimi annidarsi in oggetti usuali, però ci credeva e questo lo sapeva. Tu invece, Enigma Horst, hai assimilato chissà dove dosi di razionalismo e questo squilibra disordinatamente la tua concezione di vedere e di sentire le cose, gli oggetti, la vita. Vedi, Horst, ad un certo momento della nostra esistenza noi tutti perdiamo la nostra verginità morale, la nostra innocenza. C'è chi nemmeno se ne accorge, altri se ne accorgano ma si rassegnano. Altri ancora se ne ritrovano bene e ne ricavano vantaggi. Poi ci sono quelli come te, i dannati, che passano il resto della loro esistenza a rincorrere senza ritrovarla mai. Forse oggi la tua disperata rincorsa terminerà. Quante volte hai pensato di essere giunto alla fine? Tante. Già da piccolissimo, in Germania, hai portato negli occhi il terrore di bombardamenti mostruosi. Che cosa pensa un bambino quando cresce in un clima d'assurda, incomprensibile violenza? Forse la tua tenace gentilezza non è altro che un inconscio modo di contestare le atrocità della tua infanzia tedesca. Avevi 6 anni quando i tuoi ti portarono in Italia e non parlavi una parola di italiano. Per tutti eri il piccolo tedesco, ricordi? E per anni t'hanno fatto portare il peso di colpe non tue. Cose vecchie, Horst, cose vecchie. Non sei mai stato egoista e spesso il tuo altruismo t'ha messo nei guai. Ricordi 20 anni fa? Avevi 14 anni, un orologio nuovo al polso, ed era estate. A Bologna c'è il Reno, ed era bello nuotarvi in estate. L'orologio nuovo ed i tuoi vestiti appoggiati vicino ad un cespuglio, ed il sole e l'acqua come ricompensa ad una settimana di lavoro. Ecco, un ragazzo più giovane di te, che si dibatte nelle acque, urla, non sa nuotare ed è andato a finire in una zona dove l'acqua è troppo profonda. Tu, già piccolo Don Chisciotte, ti butti e rischi di affogare insieme allo sconosciuto perché sei ancora inesperto. Quel ragazzino ti si aggrappa addosso, ti graffia, ti strappa i capelli e se non fosse per mani amiche, quando vai a rivestirti, t'accorgi che qualcuno ha approfittato della confusione per farti sparire l'orologio nuovo. Torni a casa, carico di graffi e alleggerito del tuo tesoro. Rimproveri, rimproveri, rimproveri. Per 3 giorni hai rifiutato di parlare con tuo padre, poi tutto è tornato normale. Proprio tutto? Ecco, Horst, io penso che quel giorno, come tanti altri successivi, qualcosa ti si è spaccato dentro e questo misterioso qualcosa non si è ancora aggiustato. All'epoca lavoravi in una fabbrica di motociclette, avevi lasciati gli studi, oltre un anno, e dopo vari lavori come fattorino eri stato assunto fisso. Come apprendista in quella fabbrica avevi 14 anni, era bello lavorare in fabbrica, era una fabbrica piccola, ci si conosceva tutti. Avevamo gli stessi problemi, si portava avanti una lotta comune. 2 anni di vita relativamente tranquilla, con i sogni e le delusioni di tutti i ragazzi della tua età. Correvi in bicicletta, eri il più forte del tuo quartiere, ma poi in gare irregolari saltavano fuori i campioncini da un altro quartiere o di un'altra città che ti battevano spesso. La fabbrica fallì che avevi 16 anni. Trovasti posto come apprendista impiegato presso l'amministrazione d'uno dei più grandi spedizionieri italiani. Era un mondo nuovo, diverso, e ti sembrava d'avere ottenuto chissà cosa. C'è differenza a lavorare in tuta ed a lavorare in camicia e cravatta. Dopo un paio di mesi di prova, la direttrice ti disse di preparare una richiesta d'assunzione manoscritta da presentare al Grande Padre. Scrivesti una lettera dignitosa, la facesti leggere a tuo padre e gli piacque. Non piacque invece alla direttrice, la quale ti disse di rifarla. Ci volevano molti più, signoria vostra illustrissima, ci voleva più umiltà, più servilismo. Rifacesti la lettera, fosti assunto regolarmente, ma sia al vecchio anarchico che a te rimase un brutto sapore in gola quel giorno. Frequentavi delle scuole serali, imparasti a stenografare, dattilografare, volevi diventare ragioniere. L'orario di lavoro terminava alle 19 e mezz'ora dopo cominciava il tuo corso serale. D'abitudine gli altri impiegati si fermavano un po' di più, così gratuitamente, per farsi ben volere. Una sera, quando alle 19 in punto t'apprestavi ad andartene, la direttrice ti chiamò per dirti che in ufficio non è come in fabbrica o in cantiere, dove quando è l'orario si lascia cadere la lima o la cazzuola per andarsene in ufficio, bisogna terminare la pratica che si ha per le mani, riordinare la propria scrivania. Sì, la mia scrivania è in ordine, ma bisogna riordinarla dopo, non prima. Forse anche quel giorno, dentro di te, come per l'episodio della lettera, ne parlasti a tuo padre ed il vecchio anarchico si lasciò sfuggire più volte la frase gregge di pecore addomesticate, ma poi ti invitò alla pazienza. Come il vecchio leone che per 20 anni ha combattuto i fascisti per tutta l'Europa, che per le sue convinzioni morali ha sofferto così duramente senza però mai piegarsi, vuole fare di suo figlio una pecora? Diventasti taciturno, alla sera non frequentavi più i tuoi corsi serali, volevi andartene, scappare, andare dove, scappare dove, non ha importanza, ma via di lì, lontano di lì. Era freddo e pioveva quel giorno a Genova e tu ed il tuo amico di fuga telefonaste a casa dicendo che eravate pentiti, che avreste fatto ritorno. Sì, l'Africa che sognavate dall'infanzia era un po' troppo lontana e difficile da raggiungere. Anche quel giorno ne avevi 17, qualcosa ti si ruppe dentro. Riottenesti il tuo posto in ufficio, ma sapevi già che non l'avresti conservato. Un anno dopo l'abbandonasti, cominciasti a condurre un'esistenza totalmente sconclusionata. Quante volte sei sceso all'inferno in quel periodo? Tante, e spesso hai trovato meravigliosi angeli laggiù. Ti sposasti a 18 anni, lavoravi un po' qui, un po' là. Ancora apprendista meccanico, impiegato, barista, pizzaiolo. Sempre apprendista, ovunque si speculava sulla tua giovane età ed avevi una moglie ed un figlio. E la discesa all'inferno continuava. Ogni mattina, svegliandoti con la tua giovane moglie accanto, promettevi a te stesso che sarebbe cambiato. Ti saresti adeguato. Saresti diventato uno dei tanti schiavi felici. Non ce l'hai mai fatta. Venne il 1960, vennero i 5 anni di carcere. Ma perché farti male ricordando il passato? Oggi, giovane vecchio ragazzo di 34 anni, sei qui, che fai vomitare notizie dalle telescriventi, di lontane agenzie stampa. La caccia è aperta e sconosciuti lupi ti serviranno in tutte le salse sui loro foglietti da 2 soldi. Ma quale importanza? Nessuno potrebbe renderti quanto irrimediabilmente perso. Sei prolisso, ragazzo, parli troppo di te stesso. Non cercare di contrabbandare pregi o difetti che non hai. Cerca solo d'essere te stesso e sillo fino in fondo, che è già abbastanza difficile. Hai terminato la tua masturbatina intellettualoide? Hai finito di autocommiserarti? Allora cerca di riprendere a sbrogliare questa matassa. Bisogna uscire da questa maletta prigione. Le 8:30. Sono 11 ore che siamo asserragliati in questo ufficio. I miei 2 compagni hanno gli occhi arrossati dalla fatica e dalla tensione. Una frase del notiziario radio mi innervosisce. Autorità e magistrati insistono nei loro tentativi di farlo recedere dal suo folle ed irrealizzabile tentativo d'evasione. Chiamo l'ispettore al telefono e gli chiedo che cosa ne pensa di quanto detto dalla radio. Dice che lui non è responsabile delle opinioni dei giornalisti della RAI ed ha ragione. Per la macchina è questione di minuti. Se intanto voglio chiarire gli ultimi dettagli, dico che la macchina dovrà essere lasciata nel cortile della portineria, ai piedi delle scale, che portano negli uffici nei quali ci troviamo. Il motore dovrà essere acceso, i fanali accesi, il muso della macchina dovrà essere rivolto verso il cancello d'uscita, che dovrà essere spalancato così come gli sportelli d'accesso alla macchina. Il cortile dovrà essere completamente deserto, davanti al carcere non dovrà esserci anima viva, quindi la polizia dovrà provvedere allo sgombero dello spiazzo antistante al carcere e delle strade adiacenti. Mentre parlo l'ispettore prende appunti. Terminate le mie richieste dice che mi richiamerà tra breve. Sto riflettendo sul come organizzare gli ultimi preparativi quando squilla il telefono. È il direttore, instancabile, riprende la sua opera di convinzione per farmi desistere dalla mia impresa. Parla, parla, parla. Grasso mi chiede il permesso di scambiare qualche parola con il direttore. Gli passo la cornetta. Il brigadiere ringrazia il suo superiore per l'offerta di scambio d'ostaggi. Ad ogni modo, sia lui che Piccirillo non avrebbero accettato il generoso gesto. Raccomanda i propri figli, la moglie. Sì, sia lui che Piccirillo stanno bene. No, non sono stati maltrattati. Fuori, le rondini hanno iniziato il loro pazzo carosello serale. Non le vedo, non sento i loro gridolini e me le immagino nei loro arditi volteggi, sfiorare i tetti, girare attorno al vecchio campanile in disuso, sparire dietro un muro per ricomparire da un'altra parte. Ogni sera lo stesso infaticabile gioco, come per manifestare un'inesauribile gioia di vivere o forse per consumare avidamente gli ultimi minuti di sole, quasi che ogni giorno dovesse essere l'ultimo. Il telefono adesso squilla, quasi in continuazione. L'ispettore sembra non volermi dare tregua. Sì, la macchina c'è, ma non è ancora possibile portarla dentro. Bisogna prima allontanare i curiosi, i giornalisti, affinché nessuno possa rilevarne il colore, la targa, Questo per evitare sconsiderati inseguimenti. Ad un tratto l'ispettore mi sorprende con una stranissima richiesta. Quando scenderò, lui si troverà vicino alla macchina. Vuol stringermi la mano prima che io parta. Mai sentito niente di più assurdo. Gli dico che quando scenderemo il cortile deve essere completamente deserto, altrimenti tutte queste ore di trattative saranno state inutili. Gli dico che non lo conosco, quindi potrei pensare che l'uomo vicino alla macchina è un poliziotto in borghese che cercherà di sorprendermi. Del resto, anche se lo conoscessi, sarebbe uguale. Non voglio nessuno in cortile e tantomeno vicino alla macchina. Non solo il cortile, ma anche le scale e tutto il resto dovranno essere assolutamente deserti. Al primo movimento sospetto, al più piccolo rumore fuori posto, inizierò a sparare sugli ostaggi. Insiste debolmente, poi desiste. Ecco, ancora il direttore con i suoi ultimi tentativi. Comincia ad imbrunire. Il silenzio è assoluto. Improvvisamente sento abbaiare un cane in lontananza. Telefono e chiedo spiegazioni su cosa ci fa un cane in cortile. Mi dicono che non c'è nessun cane in cortile. È sempre buio. Tra qualche minuto gli ultimi curiosi e giornalisti saranno stati fatti sgomberare. Quando la macchina sarà stata piazzata nel posto e nel modo richiesto, l'ispettore mi telefonerà, poi anche lui se ne andrà, allora scenderò. Faccio alzare le due guardie, consegno a Piccirillo lo spago servito per ritirare il cestino delle vivande e gli dico di legare le mani del brigadiere dietro la schiena. Esegue. Controllo la legatura. Va bene. Faccio di nuovo sedere i due e attendo la telefonata finale. La stanza è ormai buia, ma non accendo le luci. Il corridoio è illuminato e rischiara debolmente la nostra stanza. È sufficiente. Libri ribelli. Libri ribelli.